Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Der Stony ist vorne, geht als erste über die Hürden. Die starke Kanadierin Taylor kommt auf. Walla Italien und Steuer Deutschland auf gleicher Höhe. Aber Walla wirft sich als erste durchs Ziel. Lo stadio, i vostri posti, Autoplatzen, fertig, pronti, quel tacchico con il pistola. Tre passi all'ostacolo, tre passi all'ostacolo, tre passi all'altro ostacolo, tre passi all'altro ostacolo. Erste, Walla Italien. Zweite, Steuer Deutschland. Dritte, Taylor Kanada. Agosto 1936, stadio olimpico di Berlino. Una ventenne bolognese, che poi diventerà aquilana per adozione, conquista sugli 80 metri ostacoli la prima medaglia d'oro olimpica femminile nella storia dello sport e dell'atletica leggera italiana. È così che Trebisonda Ondina Walla entra nella leggenda. Una leggenda che vogliamo rivivere oggi, a 100 anni dalla nascita della Walla, a 10 dalla sua scomparsa avvenuta nel 2006 e a 80 da quella storica vittoria. Perché Ondina Walla non fu solo atleta e campionessa, ma anche donna moderna e innovatrice nello sport e anche rispetto alla mentalità dei suoi tempi. E a lei proprio in questi giorni vengono dedicati anche un sito web e uno spettacolo teatrale di cui a breve parleremo. A ricordare chi era Ondina Walla ci aiuta oggi un ospite d'eccezione, Luigi De Lucchi, figlio della grande campionessa azzurra. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, buonasera a voi. Ci aiuti subito a capire, signor Luigi, perché quel nome Trebisonda e perché poi divenne di fatto Ondina? No, il nome vero di battesimo è Trebisonda. Trebisonda in quanto probabilmente l'origine di questo nome è dovuta al fatto che accanto al vicolo Alemagna, che era il vicolo in cui c'era l'officina meccanica del papà di mia moglie, c'era il vicolo Trebisonda, sempre a Bologna sotto le due torri. E il padre evidentemente è rimasto affascinato da questo nome di questa città turca che evocava evidentemente queste atmosfere un po' esotiche, e quindi questo è il nome di battesimo. Successivamente, probabilmente la versione più accreditata è che la Zanetti, che era allora una direttrice sportiva che curava un po' tutte quante queste atlete, decise da Onda, Trebisonda, Onda, Ondina. Ecco, mia madre usava sempre questo Trebisonda, Onda, Ondina. Ecco, è venuto fuori Ondina. E quindi Ondina Walla poi è diventato il suo nome di battaglia, diciamo, da atleta. Atleta polivalente per eccellenza sua mamma, vero Luigi? 7 discipline, tra i 100 metri, il salto in alto, il salto in lungo, la staffetta, gli ostacoli, quindi in effetti era molto poliedrica, anche se poi in effetti diciamo si è specializzata negli ostacoli, ma in realtà la cosa probabilmente ancora, se vogliamo, un po' singolare è che lei nel 1936 vince la medaglia d'oro a Berlino sugli 80 metri ostacoli, prima donna italiana, nel 1938 per l'ennesima volta batte il record italiano in salto in alto, che resterà imbattuto fino al 1956, più o meno per 20 anni, insomma. Davvero incredibile. Come incredibile fu anche lo svolgimento di quella finale a Berlino, anticipato da questo breve frammento dell'Archivio Luce. Signorine Testoni, Walla, prescelte a rappresentare l'Italia a Berlino, danno un saggio delle loro doti atletiche. Eh sì, perché in quella finale c'era anche un'altra italiana, e che italiana mi viene da dire, Claudia Testoni, che di Ondina era rivale ma anche amica. Ecco, come ricordava quella finale sua mamma, Luigi? La ricordava con, direi, con, da un lato con nostalgia, perché è chiaro che poi con il passare degli anni ricordava questa atmosfera incredibile dello stadio, dell'Olimpia Stadio di Berlino, con 80.000 spettatori, che all'epoca era un fatto assolutamente tipico, assolutamente singolare. E ricordava questa semifinale in cui aveva battuto il record del mondo comunque probabilmente sforzandosi più di quello che sarebbe stato necessario, e quindi la stanchezza, e già la notte aveva preso crampi alle gambe eccetera, e quindi arrivare in finale non nelle migliori condizioni. Prima della finale l'allenatore, il massaggiatore, pensò bene di darle qualche trolletta di zucchero dovuto nel cognac, e questo è vero, perché allora questi erano, diciamo, i doping di allora, comunque gli integratori di allora. E poi mi ricordo questa partenza in cui la partita forse un po' lenta, e poi faceva un passo, due passi, tre passi, ostacolo, tre passi, un, due, tre, ostacolo, un, due, tre, ostacolo, un, due, tre, ostacolo, finché poi arrivato sul filo di lana si è slanciata molto forte su questo filo e ha vinto nettamente. In realtà anche qui ci sono delle visioni diverse, in quanto è vero che fu fatto il photo finish, che aveva confermato chiaramente che mia madre aveva vinto, ma in realtà il photo finish, più che per individuare la vincitrice, era stato fatto per individuare le posizioni successive. Tant'è che in un primo tempo sembrava che la Testoni fosse arrivata terza, che la Taylor fosse in un'altra posizione, la canadese, poi alla fine hanno cambiato un paio di volte, se non mi sbaglio, e salta fuori invece la Testoni è la quarta, quindi era fuori dal podio. Dicevamo rivali ma anche amiche con Claudia Testoni, vero? Questa storia della rivalità è giustissima, ma dell'inimicizia, erano due donne atlete, tutte e due bravissime, rivali nella gara ma amiche nella vita, quindi non ci sono stati questi abbandoni o questo togliere il saluto come qualcuno ogni tanto scriveva dopo mia madre aveva sentito Olimpiadi da Testoni, ma per carità, sono rimaste molto amiche, io ho ancora parecchie foto della Testoni che mandava mia madre, qui diceva la mia migliore amica Claudia, anche dopo sposate con i figli. Oltretutto lo stesso sono stato testimone nel 1960 alle Olimpiadi di Roma, siamo stati tutti insieme, io, mia madre, mio padre e Claudia con la sua famiglia, il marito e i tre figli a Roma a vederci le Olimpiadi, insomma, quindi i rapporti sono stati sempre molto molto molto intensi, tant'è che quando poi è venuta meno Claudia Testoni, mia madre è stata molto triste, e poi in tutte le interviste ha sempre detto che appunto la scomparsa di Claudio, con Claudia scompariva una delle cose più belle della sua vita, insomma, quindi un'amicizia molto forte. I reparti nei quali la severità delle uniformi si alterna alla policromia dei costumi regionali sono ansiosi di poter gridare al duce la devozione e la fedeltà assoluta di tutte le donne d'Italia. Sia la Testoni che la Valla divennero anche prototipi della donna atleta fascista, con il regime che seppe far propria l'immagine di queste due atlete, piegandola ai propri fini propagandistici. E su questo tema, già ve lo preannuncio, ritorneremo nelle prossime settimane. Ecco, come donna e come madre invece, Luigi, chi era Ondina Valla? Beh, momenti ce ne sono tanti, certamente quelli più belli sono quelli poi, se vogliamo, della mia adolescenza, in cui mia madre mi incoraggiava, mi incoraggiava a fare lo sport, mi incoraggiava nello studio, eravamo anche più vicini, era una madre molto affettuosa, una madre anche premurosa, quindi i ricordi più belli sono legati a questo periodo, prima ancora poi della scomparsa di mio padre, che morì giovanissimo, lui ha 55 anni, aveva 19 anni, quindi i momenti più belli sono quelli effettivamente fra i 12-13 anni e i 18 anni, ma soprattutto fra i 12 e i 15 anni, in cui io vedevo in questa madre, mi rendevo conto che era una donna, oltre che bella, perché era una bella donna, almeno lo ero oggettivamente, anche una donna molto moderna, una donna, una madre non di quelle chiocce, ma di quelle, diciamo, abbastanza rispettose anche delle personalità del figlio, per cui godevamo al tempo stesso, io crescevo in un ambiente familiare tradizionale ma anche molto moderno. Quale eredità ha lasciato sua madre, Ondina Valla, nello sport ma anche nella società italiana? Ma credo che l'eredità più che l'ha lasciata, perché oggettivamente quest'anno incidentalmente, appunto, ci sono stati parecchi eventi in cui è stata commemorata Ondina Valla, ogni volta c'erano Olimpiadi, tra l'altro, viene sempre ricordata essendo la prima, ma quello che veramente mi inorgoglisce da una parte, un po' mi meraviglia, ma soprattutto mi inorgoglisce, è che siano i giovani ad aver, non dico riscoperto, ma ad aver rilanciato ancora il mito di Undina Valla. Luigi De Lucchi, figlio di Undina Valla, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi per l'attenzione e buonasera a tutti ancora. Ora una breve pausa, poi andremo a teatro, dove ancora oggi Undina Valla vive e continua a raccontare il suo mito. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. 8 agosto 1936. Il vessillo italiano sale sul più alto pennone per merito di Undina Valla e Giulio Gaudini. Prima vittoria italiana nelle gare di atletica e, dopo una lotta breve ma entusiasmante, ha conquistato la vittoria nella finale degli 80 metri a ostacoli. Trebisonda Valla, detta Undina, figlia di Gaetano Valla e Andreana Pezzoli. Nata a Bologna, fuori Porta Saffi, il 20 maggio del 1916. Professione? Atleta. Io gareggio da quando avevo 13 anni. Sono un'atleta eclettica. Le mie specialità sono 100 metri piani, salto in blu, salto in alto e... corsa d'ostacoli. Eccola la voce di Undina Valla, la prima medaglia d'oro femminile olimpica dello sport italiano a Berlino nel 1936, negli 80 metri a ostacoli. Anzi, meglio, quella che avete appena sentito è la voce di chi oggi interpreta Undina Valla su un palcoscenico teatrale, perpetuandone il mito, in uno spettacolo dal titolo Undina Valla, oltre ogni ostacolo, che è stato rappresentato anche all'Aquila, città d'adozione della bolognese Valla, e in questi giorni è qui a Milano ed è rivolto in particolare alle scuole, ai giovani. E allora a Olimpia ospitiamo oggi proprio le protagoniste di questo spettacolo teatrale. L'autrice e regista Lisa Capaccioli, benvenuta a Olimpia, la città dello sport. Buonasera Dario, buonasera. E poi l'attrice che impersona Undina Valla, di cui abbiamo appena sentito la voce direttamente dal palco, Lorenza Fantoni, ben trovata a Olimpia. La città dello sport. Buonasera a tutti voi. Allora Lisa Capaccioli, come nasce il vostro spettacolo, che è figlio, se ho ben capito, sia della vostra amicizia sia anche di una coincidenza fortunata, se non sbaglio, vero? Allora, diciamo, innanzitutto per un motivo che è, diciamo, la genesi del nostro lavoro. Visto che Lorenza è bolognese, io scrissi in internet donna bolognese famosa e ovviamente nella pagina di Google venne fuori Undina Valla. Allora io iniziai a leggere un po' di notizie e mi innamorai di questa figura che, oltre a essere una grandissima atleta, questa donna è stata una donna meravigliosa e la sua vita mi ha così tanto appassionata che ho deciso di poi scrivere insieme a Lorenza, perché mi ha aiutato moltissimo nelle ricerche, di scrivere questa drammaturgia proprio per lei. Ecco, qual è il momento chiave della vita della Valla che più ti ha colpito scrivendo il testo, Lisa? Secondo noi la cosa più interessante era proprio la vittoria delle Olimpiadi del 36. Per sottolineare proprio la grandezza dell'impresa di questa donna che nel 36 riesce a vincere la prima medaglia d'oro. È la prima donna italiana che vince una medaglia d'oro. Per cui nello spettacolo si pone l'attenzione proprio su questo evento e da lì si passa a rappresentare anche simbolicamente gli 8 ostacoli che lei ha superato nella gara, ma anche nella vita. Quindi ho tirato giù una drammaturgia in cui si vedono 8 punti, snodi fondamentali della vita di Undina Valla, in cui lei poi ha superato per arrivare a tagliare, diciamo, il traguardo. 8 ostacoli, quelli che separano Undina dal suo oro olimpico, che sono anche la metafora delle difficoltà che questa donna campionessa ha dovuto superare per arrivare al trionfo più prestigioso, giusto? Devo dire che raccontare questa storia e questi 8 ostacoli, appunto, della drammaturgia per me è stato un grande viaggio, proprio perché superando ogni ostacolo, che sono poi nell'ordine gli allenamenti che lei ha dovuto superare, i conflitti con la famiglia che non voleva che lei facesse l'atleta, il genere, perché c'era anche una problematica di genere, la Chiesa che non l'ha fatta partecipare alle Olimpiadi del 32 e via dicendo, fino ad arrivare proprio a un ostacolo che è rappresentato da se stessi, per cui quando un individuo si ostacola, diciamo, nella riuscita, devo dire che sono legata a tutti, a ogni momento dello spettacolo, anche perché credo che il messaggio che si possano superare gli ostacoli sia molto importante, soprattutto per le giovani generazioni, per cui mi viene da dire adesso una delle frasi dello spettacolo, che poi è poi quella da cui è stato tratto il titolo, che Ondina Valla dice a un certo punto in una delle tante interviste che ho letto, che lei corre molto molto veloce oltre ogni ostacolo. Ecco, questo è il messaggio che mi piacerebbe, che mi piaceva passare e che mi piace continuare a passare. Ecco, Lorenza Fantoni, per te che le presti corpo, voce e anima, ecco, cosa ti ha messo più in difficoltà nello studiare il personaggio Valla? So che proprio Luigi De Lucchi, il figlio, ha dato il suo assenso di fatto alla tua interpretazione. Avevo così la problematica, cioè il fatto di confrontarmi con chi l'ha conosciuta veramente, e quindi pensiero, oddio, ma sarà veramente stata così? Sarà veritiero quello che faccio? E fortunatamente è andata bene, perché lui mi ha detto: guarda, mia madre era proprio così, e questo è stato un grande onore. E dal punto di vista tecnico invece come hai lavorato? Beh, io essendo bolognese come Ondina Valla conoscevo abbastanza bene, cioè parlo anche il dialetto bolognese, quindi un pochino ho ricercato così anche nella mia famiglia il rapporto con mia madre, con mia nonna, come poteva, e con anche il bolognese, come poteva parlare lei, come si poteva rivolgere alla mamma essendo comunque un po' ribelle, avendo avuto io una mamma abbastanza severa, quindi come descrive Ondina Valla la sua. Quindi un pochino ho provato a pensare a questo, sì, alla bolognesità, al fatto di venire tutte e due dalla stessa città. Ti chiedo ancora, Lorenza, come reagiscono i ragazzi, gli studenti che vedono oggi il vostro spettacolo dedicato a questa campionessa così particolare, in larga parte magari dalle grandi masse anche sconosciuta? Allora, i ragazzi, era un timore nostro, diciamo, oddio, ma rimarranno ad ascoltare per un'ora un'attrice che parla di una persona vissuta tanti anni fa? E invece loro rimangono a bocca aperta e mi seguono anche per la scrittura abbastanza così libera e sciolta di Lisa, che rende il tutto non pesante, e quindi loro mi seguono e dopo dicono: non immaginavamo che lei esistesse, perché non la conoscono, però dicono: meno male che viene fatta conoscere, perché è giusto che ci sia un esempio così da seguire. In conclusione chiedo invece a Lisa, ecco, qual è l'eredità che Ondina Valla ci lascia e che sopravvive ancora oggi? Sicuramente una grande spinta di coraggio, di passione e il messaggio di non mollare, ecco, oltre ogni difficoltà. Anche rispetto al discorso che facevi tu sulla condizione storica in cui l'Italia si trovava, a me è piaciuto descrivere questo personaggio, cioè mi piaceva pensare a questo personaggio come una giovane ragazza, perché quando ha iniziato a gareggiare aveva 14 anni, quando ha iniziato a vincere, che si muove all'interno della storia ma non si accorge di che cosa le sta succedendo, ma cammina e va oltre. E allora, grazie a Lisa Capaccioli, autrice e regista di Ondina Valla, Oltre ogni ostacolo, e a Lorenza Fantoni, che interpreta la grande campionessa sul palco, e grazie a entrambe per essere state oggi ospiti di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te, Dario, e grazie a tutti voi, grazie mille. Grazie a voi davvero, di cuore. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.